disponibile all'ascolto, Bricco Val. Bricco. E avanti. Chi sei, Gianni? Gianni sono. Avanti. Stato fortissimo, già, è arrivato quel vicolo. Va là, sono contento, l'apparecchio com'è? Oh, bello. Eia. L'ho visto che era bello, subito mi ha pallucchio, sì. Infatti ho pensato subito a Riccardino, adesso glielo dico perché lui è un collezionista. Un attimino che sono al telefono con un amico e magari ci sentiamo dopo, sì. Ah, fai tranquillo già. Hola Malaga, quiero hablar contigo. Attento mi hermano de las Cruciales, de la Sardinia, adelante. C'è qualcuno su 10? Avanti. Ah, ciao Sergio, ben sentito, beh. Stiamo per provare lo Zodiac. C'erano questi spagnoli che arrivavano a bomba. Ah, ecco, il Santiago 9 qua. Ah, Malaga sta arrivando a bomba, questo doveva avere che... C'è qualcosa che spinge sotto forte, a parte la radio. Siamo a un segnale qua in città. Beh, funziona questo Zodiac. L'attacco e mi dici come vado. Questo cos'è, il tornado, quello che sta usando? Te lo riconosci? Come, scusa? Un po' la modulazione? Sì, è bello, a me piace tantissimo questa radio. Adesso ti voglio far sentire questa stazione base, c'è un microfono particolarissimo, poi mi dici come mi senti. Ok. Uguale a questa che ho io. Questa Zodiac che sta usando? Pullman 7000, uguale a Zodiac 5024, questo è nero, quello è celeste, l'ho avuto anch'io. Questa è una bella radio, stai spingendo poco, che microfono sei, Cla? Con l'MB più 5. Spinge parecchio, molto forte. Ecco. Ma anche col microfono normale vanno bene, sono uguali. Quella lì mi sembra che non abbia il Mickey Gain, questa c'è il Mickey Gain. Avanti Sergio. Ok, grazie, ciao Claudio. Ecco, adesso sto modulando con la storia. Va bene, ce l'ho anche io sto modulando col Polmar che è uguale al Zodiac, che è stessa radio, quello è il 5024, questo è il Polmar 7000, sono uguali, questo forse c'ha qualcosa in più, mi pare il Mickey Gain, qualche cosa in più, tu c'hai la colonnina a destra, io ce l'ho a sinistra. Ho capito, la sigla di questo è come si tutti sono così, e come il Polmar, come questo qua, come il Zodiac 5024, l'Inuit, sono tutti uguali, questo qua è uguale a quello lì, dai, non cambia niente, se ne metti un MB più 5 questa è la modulazione. Vabbè, sto cercando quel pennino, cazzo non lo trovo, ma roba da matti, sono così ordinato, non ho capito dove l'ho messo. Avanti, mi du, vabbè dai, già lo trovo. Ciao, ci sentiamo, ciao a tutti. Ciao Fabio, sentito. Ciao a tutti gli amici che sono entrati, dai. Sergio, ma stai usando quello lì adesso? Sì, esatto, ciao Claudio, sì. Sergio, mettile un MB più 5 lì, vedrai che esci come questa. Dai. È una coglionata, quattro fini intanto, è uguale a questa, te l'ho detto, no? Non c'è problema, tu c'hai la colonnina a destra e io ce l'ho a sinistra, la tua è rotonda, la mia è quadrata la colonnina, ma le radio sono uguali, dai, non cambia niente. Ciao, riprendi e fai girare per me QRT, ciao ciao. Ho capito, va bene, dai, stai uscendo benissimo come sempre. Avanti, Roberto. Sì, guarda, Claudio, col microfono si addice bene a quella radio, spinge che è una meraviglia, molto, molto potente. Tu sei con quello normale, quello non amplificato, confermi? Sì, esatto, sono con un palmare un po' particolare, non avevo mai sentito la casa della luce. Oh, la radio è chiara, molto, molto chiara, pulita. Sicuramente se tu gli metti un microfono a quella radio, sono sicuro che spinge parecchio, tipo Tanner o cose del genere, come l'altro, quel tornado con quel... con quell'altro tane sì, che è una meraviglia, mi sembra del doppio rumo, Gianni sei tu? Ehi, ciao Robert. Sono contento, dai, che sia nuova, che sia tenuta bene, sì, grazie, non ne ha, beh. Qualche grazie se ce l'ha, all'età, però in linea generale. Ma mi è sembrata una persona seria, io ci ho parlato con un tipo, mi è sembrata una persona seria, se vai a dire la Riccardino, L'ho telefonato io, capito? Sì, là, hai parlato bene, l'ha confezionato bene. No, ma bene. Appaga. E già va bene. E a me mi ha bloccato solo il fatto che era pochi canali. Se fosse stato 23 canali l'avrei preso. Sì, lo so. Vabbè, ma siamo poi alla fine. Andiamo su 10 e andiamo sempre in viaggio. Ma quanti canali è per te? Ah, le fai via 13. E corrispondono ai canali normali? Sì, corrispondono. Quindi il 10 è sul 10, l'11 sull'11 e così via. Sì, esatto. Ma spiegami, ho una stazione base, mi confermi? Sì, esatto, una stazione base grande come può essere quello che ho. Poi una cosa strana, sulla ruota proprio i sono riportati soltanto i canali di gli altri sulla ruota. Sì, io guardo la foto che ce l'ha Riccardino, gliel'ho mandata di questa, sono molto simili. No, la mia non è a graffi, la mia è nuova nuova. Sì, ma infatti l'avevo visto che si assomigliavano parecchio, dai, poi in quel periodo quando la mia la copiavano, facevano i vari cloni. Sì, sono molto simile. Questa c'ha il Mikey Green, quella lì non ce l'ha, mi sembra, no? Ma guarda, adesso non ho capito granché perché mi sono il tedesco. Vabbè, quella c'ha 4 tasti mi sembra, 4 potenziometri, la mia ne ha 5, quindi dovrebbe avere il Mickey Gain in più la mia. Sì, sì, mi sa che hai ragione, questo è un attivatore RS poi, per segnali. Sì, ma l'ho avuta quella io, che appunto si chiama Inuiti 5024 in Italia, ed è come il Zodiac, come il Polma, sono tutti uguali, cambia a volte la posizione della colonia, tu infatti tu ce l'hai a destra rotonda, io ce l'ho quadrata, bellina, della stessa misura dell'orologio a sinistra, capito? Però sapevo che c'era qualcosa in più questo, dai. Mettile un microfono da tavolo, soprattutto un MB più 5 come questo, e vedi che la modulazione è splendida, perché hanno un'ottima ricezione queste radio, escono veramente molto molto bene, e poi non prendono colpi, capito? Avanti Robè, riprendi, cazzo, non riesco a trovare sto pennino, Robè. Ma pennino, stai parlando un antennino, scusa. È un pennino, un antennino piccolino, guardate quanto è il dito, quanto è il dito, non è come un'antenna di un VHF portatile, è quanto è il dito, l'ho messo da qualche parte perché qua ho tolto tutto, ho fatto nuovi lavori in stanza e non mi ricordo dove l'ho messa, nel cassetto non c'è, vabbè dai, adesso porto il cane e poi già la trovo, ci sentiamo dopo, ciao. E dopo qua, vai già. E quindi adesso stai modulando, quello lì è stato fatto per la Germania. Oh sì, è stato fatto per la Germania, me l'ha detto chi te l'ha venduto. Mi ha detto questo qui l'apparecchio è stato fatto per la Germania, perché poi c'era per l'Italia era 23 canali, invece questo per la Germania l'hanno fatto con 16. Esatto, adesso sono passato con l'altro apparato, questo l'ho spento perché lo volevo ancora vedere un pochettino. E niente, l'orologio funziona, sembra che funziona tutto, è tutto a posto. E... va bene, dai, va bene così. Mandami la foto, se è uguale all'Inuiti che vendo io, in Sergio. Adesso ti mandiamo la foto, sì, comunque più o meno è quello, con quell'orologio grande su un lato, adesso ti mandiamo la foto e lo vedi. Sì, ricorda molto quell'Inuiti che ce l'ho anche avuto da ragazzo con la stazione base. Perché ce l'aveva Claudio, me l'aveva prestato per un periodo quando non aveva ancora il faccia, ma aveva prestato l'Inuit e c'era un orologio a lancette analogico, diciamo, se non sbaglio. Esatto. E adesso ti sta facendo la foto e te la manda e lo vedi, ma ci assomigliano un po' tutti. E mandami anche la foto del Royce, così voglio capire. Royce ti è preso, sì. Quale Royce? Forse di un altro apparecchio, vabbè. Allora forse lo sto dicendo fesserie, non me lo ricordo. Che apparecchio cos'era? Che cazzo era? TBR, cos'era? Buono, non lo ricordo. Ti avevo parlato di quel Royce 693 mi pare, quello da barra mobile, che mi doveva dare una risposta. Adesso non mi ricordo, siccome abbiamo parlato un po' di baracchini, non mi ricordo se era quello, abbiamo parlato anche di quello che avevo in macchina, quello che piaceva a me, che cosa era? Era un vecchio Inuit, credo che tu hai visto quello. Poi adesso mando la foto e vediamo un po' se è quello che intendevi. Il microfono questo Monacor, questo qui è il microfono originale di questo apparato? No, no, abbiamo cercato poi praticamente una ditta che fa, una ditta tedesca credo, che faccia microfoni, amplificazioni, eccetera, eccetera. Ma la Monacor la conosco molto bene, fa altoparlanti, è specializzata anche di grande qualità la Monacor, è un marchio abbastanza importante tedesco, per cui se conosce fa altoparlanti può fare anche sicuramente capsule microfoniche, che è sempre campo elettromagnetico. Ma no, bello, comunque l'apparato mi fanno vedere, sì, è molto simile all'Inuit, forse l'Inuit è la squadra, ah no, aspetta un attimino, forse l'Inuit c'era l'altoparlante dall'altra parte, forse era quadrato l'altoparlante, però come tipo di tipologia di apparato è simile. Ma credo che sia simile anche nelle dimensioni, in linea generale lo ricorda molto, si assomiglia parecchio. Questo microfono, guarda, credimi, io non l'ho mai visto, un microfono del genere con una con un corpo pressofuso in alluminio, pesante, ma pesante, proprio sembra, si vede che è una cosa fatta bene, ben fatta. Oppure l'ho cercato e questi fanno altoparlanti, come dicevi tu, e roba di amplificazione. Sì, io c'avevo, adesso forse la Monaco mi è arrivato poco, però ho acquistato tanti altoparlanti tanti anni fa, più di 30 anni fa, ho acquistato degli altoparlanti della Monaco, era abbastanza un marchio molto, come forse l'Acciare, dai, l'equivalente dell'Acciare italiana la faceva la Monaco, no, è bello, questo se te lo tira la testa fa anche male. Sicuramente, perché così pesante non l'avevo mai visto, non ha lo stesso peso ma quasi di un, sembra un base. E poi ti parlavo del cavo, il cavo non so, ho fatto una comparazione, mi sembrano uguali, addirittura su questo che ho preso c'è anche la dicitura del codice sulla guaina. Ma l'hai fatto l'hai aperto tu lo spezzone per vedere se la cosa è intrecciato, la calza, se è color rame o se è stagnato? Identico, stessa guaina, stessa calibratura, stessa tessitura, uguale identico, vabbè. È centrale, è unico o intrecciato il cavo centrale? Intrecciato, come quello là. Quindi è uguale a quello che abbiamo preso noi, a LU 213U. È uguale a quello. Ma confermi, 0,95. 0,95. Ne abbiamo preso quanto? 60-65 metri. Cazzo, un regalo, io non riesco a capire come fanno a fare, lo sai quanto costa? Allora di ripino costa 3,50 euro al metro, fai che riesci a prenderlo a 3 euro preso spezzettato, se ne prendi una matata magari te lo danno anche a 2,50 euro, fai 2 euro, cazzo, ma tu l'hai pagato la metà? Ho sentito un'offerta, era stato segnalato in rosso e parlava dell'offerta, probabile che magari ne abbiano avuto uno stock di chissà quanto, e quindi boh, anch'io dico che prezzo strano, perché la differenza è parecchia, a loro quanto gli è venuto, un prezzo irrisorio. Avanti Gianni. Sì, vabbè, quando si trovano queste occasioni bisogna approfittarne. Sì, comunque esce bene quel microfono, infatti al Riccardino gli ho detto quel microfono mi piace, subito via occhio. Mi ha detto subito Ricky, hai visto Gianni c'ha un buon colpo d'occhio, se ne intende, perché io sinceramente quando l'ho visto in foto ero convinto che era, sai, quella plastica cromata. No, a me mi ha colpito molto quel microfono, sai, è una delle cose che mi ha colpito all'inizio. Infatti gli ho detto male che vada, se il microfono è buono, se non altro usiamo almeno il microfono, per il resto sarà, diventerà un salvadanaio, qualcosa ci faremo dentro, però invece è andata bene, tutto sommato non ci possiamo lamentare. Avanti Roberto. Ehi, fammi sentire Riccardino con la sua voce. Roberto, ciao a tutta la ruota, anche a Gianni e a Claudio sei in ascolto. Esce benissimo, proprio chiara e pulita, complimenti, una bella radio, esce veramente bene. Infatti questo microfono non era male, dai, abbiamo fatto bene con questo suono, accoppiato anche con l'apparato giusto, visto che comunque rende. Ma è bella la modulazione, è molto lineare, non è, per dire, se metti l'MB c'ha sempre un po' di acuti, ti dà l'esso, è troppo pronunciata, quando fai ti dà un po' di esaltazione degli acuti, invece questa è molto pulita, considerando che un microfono palmare, considerando che puoi cambiare avvicinando per allontanare, è molto pulita la modulazione, complimenti. Meglio così, l'importante è essere un po' comprensibili e che quando uno ti ascolta con piacere, senza quelle amplificazioni strane, senza quei frusci che una volta si trascina dietro. Comunque dai, meglio così. Avanti Gianni. C'è una propagazione allucinante, sta arrivando fortissimo. Qua con la spagnolo e il suo amico arrivano fortissimi, la radio e spinge una cosa impressionante. Sì anche qua so così, quando mi lanciato pensavo che stesse riprendendo qualcuno, invece erano in spagnolo. Mi ha fregato pure a me. Avanti Roberto. No, questo radio, il segnale è 9, ma la radio è molto amplificata e chiara, come veramente buona quella di questi qua. Sembravano qua, infatti pensavo come ha fregato anche a me quando hai chiuso tu il microfono, sembrava che volesse entrare qualcuno. Ok, tanto vediamo se c'è qualcuno invece a parte gli scherzi. Compagnia di Roberto, Gianni Doppio Run, Sergio con Riccardino, naturalmente, vediamo se c'è qualcuno. Avanti se vuole entrare. Nulla, vai Sergio. A me poco fa mi ha fregato perché ho visto che stava facendo le prove di amplificazione con un collega lì dalla zona della Spagna e pensavo che fosse qualcuno di qua vicino. Infatti gli ho detto a Ricky, mica c'è qualcuno qua, prova a chiedere un controllo su come stiamo uscendo con questo apparato qua. E invece niente, erano loro che stavano cercando di fare le prove. Ehi Gianni, sì, vero, ma tu ieri notte che ti stavi chiamando Riccardino? Ah, io ieri notte non c'ero a casa. Sono trovato tardi, ero fuori. Ma non eri col portatile, perché non riuscivamo a capire, stava sempre chiamando Riccardino. Ah, non ero io. Io ieri proprio non è acceso di barattino, ieri notte. Sono tornato a casa tardi e poi mi sono messo a letto. No, perché con Riccardo ho detto, non lo so chi è, Santiago Sette arrivava e lui mi ha detto, forse Gianni non l'ha portato, ha preso il cane e sta chiamando col portatile. Infatti ho detto, sarà lui, perché non voleva mai entrare. No, io non ne ho portato il portatile, il cane l'ho portato prima perché poi sono uscito, quindi non c'ero a casa ieri. Ieri ero in giostra, là. Ok, allora Riccardino, bisogna denunciare per stalking tutti quelli che ti hanno chiamato per più di mezz'ora, sempre Riccardino. In un primo momento pensavo fosse Eugenio, ma poi Eugenio è diventato a casa sua, per cui non poteva essere lui. Poi mi ha fatto venire il dubbio Riccardino, ho detto, chissà chi è allora. Riccardino, vieni a prendere i provvedimenti. Infatti anche a me ieri mi ha fregato, pensavo che era Gianni, invece ci siamo sbagliati in pieno. Guarda Gianni che ti ho mandato la foto di un vintage, guardatela. Ciao a tutti. Ecco. Allora ti Fabrizio. Ciao, ben sentito. Ascolta, siccome sto facendo una prova su sempre questa è la mia radio, perché avevo toccato qualcosa, è sempre uguale tutto quanto, sì. Sì, la parte mia sta andando benissimo, il segnale è fortissimo, 9P50, radio 5, bella amplificata. Fabrizio. Ciao Riccardini, hai visto i filmati? Ciao a tutti, ciao Claudio, ciao a tutti, ho sentito solo voi. Ho sentito a Roberto e Riccardino. Riccardino, hai visto i filmati? Stanno caricando tutti, adesso me li guardo uno ad uno. Parto dal primo e poi a finirli tutti perché ha caricato a metà solo l'ultimo. Adesso se no li esporto in un altro telefono e li faccio caricare da lì perché è una connessione proprio lenta. Ciao Fabri che sto uscendo, ciao a tutti. Ciao Claudio. Sì, Riccardino, ti ho mandato, ti spiego. Allora, adesso è più o meno tutto a posto questo apparecchio qua. L'unico problema è che da tanto, sono un po' di giorni che ci sto battagliando, alla fine forse adesso sono riuscito a coprire. Comunque, se vedi l'ultimo filmato, praticamente ho ben passato il ramo e ho visto che il figlio arriva un segnale di una corrente negativa dallo stadio, non so sicuramente finale, ma al momento arriva dalla scheda filtri, probabilmente prende un segnale, adesso devo seguirlo, però comunque un qualcosa che gli dice di andare in blocco, gli manda una corrente negativa, come si fa per le valvole, si dice, no? Gli manda una corrente negativa per inibire la trasmissione, così viene fatta anche nei transistor, questo è un FET, praticamente tutta una serie di catena che gli manda una corrente negativa per polarizzarlo, per non polarizzarlo e non fare amplificare tutti questi transistor e quindi praticamente non esce, e quindi c'è qualcosa che lo sta mandando in protezione, e dovrebbe esserci qualcosa sulla scheda finale, magari per alta temperatura, qualcosa che sta mandando in clip, ma è una protezione che c'è, che lo fa lui. Fabri, adesso mi scarico il video, spero di essere come te da grande, che almeno me ne intendo, che so vedere un apparato, comunque sempre studiando. Riccardo Mighiera, il tuo taglio ero come te, né più né meno, non sapevo niente. Quindi ti metti piano piano, poi sei autodidatta come me, non è che impari chissà che cosa, però un po' di infarinatura per fare qualche lavorettino, ogni tanto senza, non in maniera grande e professionale, ma un pochettino così, per fare qualche cosa ci riesci, niente di particolare, se non fai gli studi adatti, però più o meno, è solo una questione di passione, mettiti a studiare. Avanti Roberto. Poi infatti l'ho consigliato anche io, vai in industriale, ti scrivi in elettronica e piano piano ti danno le informazioni dovute, diventerai un grande riparatore se ti piace farlo, e poi ti prenderai la patente, avrai anche cognizioni tecniche oltre che pratiche. Ok, c'è anche Gianni Doppio Rumo, avanti Gianni per Fabrizio. Buonasera. Ciao Rumo. Gianni, ci sei? Sì, ciao. Ciao, ti ligato, mi senti tanti a te, dai, con realtà. Mi sembra che abbiamo sentito anche a Luca, avanti. Ciao a tutti, ciao Gianni, Riccardino, Roberto, Claudio se non sbaglio, poi c'era Alfa 21, il grande però, non il piccolo, e Fabrizio. Sì, volevo dire anch'io a Fabrizio, ma a Riccardino sono un autodidatta, tante cose le so fare, grazie anche al computer. Se vuoi imparare qualcosa anche su YouTube, saldature, tante cose, io non sapevo fare niente, non ho studiato niente, infatti molta gente non ci crede, però tante cose io le riparo. Con i marachini sono negatissimo, guarda, lo posso confermare che sono proprio negato. Poi vabbè, se già cambiava la lampadina, qualche marachino l'ho riparato perché si vedeva il danno che si era spaccato in un finale, che aveva ripreso a funzionare, avevo sostituito, ma tanti anni fa. Però io tante cose le so fare, grazie anche al computer. Avanti Riccardo, riprendi. Grazie Luca, comunque ti saluto anche a te, mi state dando una speranza. Se ti piace l'elettronica, guarda, hai fatto bingo, io l'elettronica l'amo. Fabrizio vabbè è molto molto avanti, molto molto tanto, e vabbè dai, io ho iniziato facendo danni, là, purtroppo sì, però posso dire che qualche soldino l'ho levato fuori, posso, non è una bugia, qualche soldino l'ho tirato fuori, va, riprendi di nuovo, fai girare. Facciamo andare avanti di nuovo a Roberto. Dai, Riccardino è un grande, dai, piano piano diventerà una persona molto, che chiederemo le informazioni a lui, come si riparano le cose, sono contento, dai. E c'ha molta passione, è un ragazzo intelligente, sveglio. Non ti esaltare troppo con i complimenti però Riccardino. Avanti, a te o a tuo babbo? Bene, non fatemi arrossire. Riccardo, aumenta che questo qua ti sta superando, c'è segnale 8 da me, segnale 9. Fortissimo, mi sa che devo spaccare, devo mettere un pochino, pochi più gas. 9, quanto mi hai detto che ti arriva a te Riccardo, Luca? 9, 9 e 5. Qua arriva un po' più forte, dai. Ok, no, questi rumi russi, spagnoli sono più di 9, però lui già esce bene, è quasi 9 e 20, 9 più 15 qua arriva. Però c'ha la radio molto forte qui. All'altra vez. Ehi, dopo le stanchezza va. A te per Spagna, Crispucci d'Italia che va chiamando. Ah, Roberto, sono andato in quel negozio che hanno aperto un nuovo viale Porto Torres, praticamente di fronte alla rotatoria, io non so, mi ricordo il nome, ma c'è molta roba, ci sono televisori che vendono, ma è molta roba. Poi vabbè, tipo Mauri, sì, solo che in più questi qua vendono televisori, aspirapolvere, mi pare, adesso non mi ricordo. È un bel grande, 2300 metri quadri di negozio. Non ho capito dove, è quando l'hanno aperto tra la parete. Praticamente dove c'era prima Pitarello, o Pitarosso, adesso non mi ricordo. Ma giù sta dicendo, prima di punti sta dicendo. Roba, la rotatoria poi scendeva via Porto Torres, quella che praticamente rimaneva a fianco, c'era quel meccanico di camion tanti anni fa, ti ricordi? Dove c'è Melunga, dove c'era Melunga? Ah, ho utilizzato il locale di Melunga. Ah, è Melunga, bravo, sì, ha ragione Gianni, sì. Molto grande, siamo andati, bello, Ma cinesi? No, no, lo italiani. Va bene. Di tutto e di più. Cose per la casa. C'era un attivo, se mi ricordo, che marca è un 32 pollici, vabbè, una sottomarca. La marca era, aspetta. NGN, una cosa del genere. 32 pollici, 100 euro. Poi c'è un 40 che costa 200 euro. E quindi sono prezzi molto convenienti. Anche coso, quello, come si chiama quello, vicino a quei tubi gialli dell'acqua, prima di arrivare al mercato all'ingrosso, come si chiama? Malaga, io ho capito, adesso non mi ricordo, sì. Lì c'erano delle offerte, infatti sono rimasto a bocca aperta, ho preso un paio di quelli, come si chiama, che si mette l'acqua dentro, ma lo mettono nel camper, ma l'ho provato in officina, voi dovete vedere come spinge questo affare, è una cosa, non mi sarei mai immaginato, cosa ti posso dire, di grandezza sarà 20x20, c'ha telecomando, c'ha il tastino, lo puoi usare come umidificatore, ci metti l'acqua dentro, e c'era vento, guarda, se non avessi provato non ci avrei creduto, è una cosa spettacolare come raffredda questo cavolo di cosa, è impressionante, cioè ci sono delle piastrine tipo carta dei filtri d'aria delle macchine, si inumidiscono con questo coso qua, lo puoi utilizzare direttamente come ventola con questa cosa inumidita, oppure c'è una specie di coso che butta dell'acqua, dai, sfrutta infinitesima, neanche si vede, ma l'ho durato per almeno 6 ore, tipo se l'ho provato in ufficio, che c'è molto caldo, in un'officina, come ho detto, nessuno ci voleva credere, poi è bellino perché è leggero, è piccolino, non è il classico, a casa c'ho climatizzatore, ma l'ho voluto prendere per il camper, ho detto, d'estate anziché usare il ventilatore, ti posso dire, costa 14 euro se c'è la casa, 14,90 euro, ma sono soldi spesi bene, e poi c'erano quelli ventilatori a piantana, col telecomando, ma a 9 euro, 19 euro, prezzi, infatti, lavatrici a 120, televisori, ce n'era uno 43 pollici HI, smart TV 4K, e coso, 239 euro. Il ventilatore col telecomando, beh, il mio è bello, no, perché il mio l'avevo pagato, allora, 39,99, 40 euro l'avevo pagato, poi sono andato dopo un mese e costava 10 euro in meno, e vabbè, non mi si va in fretta, ma ti posso dire che, guarda, è un bijou. Dai, vediamo un po' se c'è Claudio, ripeti Claudio. No, Claudio credo che sia uscito a portare il cane, almeno ho capito. Vediamo di nuovo Sergio Riccardino, oppure rilasciamo un attimo la Fabrizio. Avanti Fabrizio, che era in riposo. Sì, no, tanto io sto studiando per Riccardino. Sì, Riccardino, se dipende da cosa ti piace, se ti piace l'elettronica, una delle scuole migliori ti posso garantire, perché ho fatto meccanica, ho fatto solo 2 anni di elettronica un po' giocando. Quindi un po' mi è servita ma non molto, mentre in elettronica c'è da è bella, perché si fa veramente bene, se si da lì dopo si è veramente preparato, se studi bene, sai un sacco di cose, sai tutta la teoria, tutte cose che in 2 anni ho fatto un po' le basi, poi tutte cose che mi sono dovuto vedere da solo, studiacchiarmi per i fatti miei, per esempio saperti leggere uno schema, capire come cosa c'è dentro, quando c'è quella corrente, cosa succede a quel transistor, quando viene polarizzato, cosa succede, tutte queste cose ti insegnano, le cadute di tensione, cosa succede lì, perché quel ramo, un oscillatore, c'è un sacco di cose, capito? Proprio esci che hai molta, se studi bene hai molta teoria, se poi ti piace la puoi applicare anche in questo campo qua, per esempio, capito? Vedi tu che vuoi fare, a parte che puoi anche tranquillamente studiare da solo, però comunque se ti piace puoi fare gli industriali, se ti piace altro fai altro, ma comunque si può sempre, puoi anche proseguire a studiare questa roba qua, e non è che ti preclude se vai in un'altra scuola o un liceo o qualsiasi cosa, non è che ti preclude il fatto che non puoi studiare anche questa materia qua, dipende, dai, riprendi, ricordi e fai girare. Già mi piace questo campo e posso cimentarmi e provare comunque, e poi si vedrà come detto, si vedrà. E comunque Claudio si è detto che stavo uscendo, faccio venire avanti Gianni, se ci sei ancora, se no Roberto. Ma vediamo se facciamo qualcosa o no. Aspetta, riprendi e poi dire a Roberto, così io poi continuo qua. Sì, Riccardi, devi studiare, perché noi siamo grandi, così quando sei più grande tu, magari fra 10 anni, che io sono più vecchietto, sarai tu a doverci riparare le radio, a darci una mano a montare antenne, a fare questa roba qua, che non ci possiamo più arrampicare dove diventiamo vecchietti, e contiamo su di te. Ci proverò, Fabrizio. Sicuramente lo spazio, Riccardo, per montare antenne e cose varie ce l'hai, c'è una bella superficie utilizzabile. Anche questo fine settimana bisognerà piazzare un'altra antenna. Ehi, dai, se capita ci faccio un saltino e vedo un pochettino a darvi una mano se possibile. Vabbè, mi sa che ho sbagliato facendo i calcoli, alla fine sono 33 invece che 60. Mi baria. Io ho visto più o meno la dimensione della tua casa, e dove cazzo deve andare? Alla Torre Eiffel. No, ma secondo me, se ti sta ascoltando Sergio, lo dico anche a lui, fatelo direttamente sul tetto. Fai il tragitto più breve, senza fare in giri, cornicioni e cose strane. Lo butti sul tetto, tanto se non ci dovete mettere niente sopra, ti metti qualche cosa per tenerlo bloccato il capo, in modo che non si muova, li puoi mettere delle tavole, poi magari un blocchetto o qualcosa, in modo che rimanga appoggiato in terra e non si muova col vento, o metti rettilineo il percorso più breve e poi te lo metti direttamente, lo fai entrare dalla finestra da qualche spigolino che si riesce a passare. No, perché la nostra idea all'inizio era farlo passare i cornicioni negli angoli, e invece abbiamo scelto di farlo che dal tetto scende dalla colonnina e basta, e quindi sono 33 metri e vanno bene così, non uso neanche tanto cavo e con l'altro mi posso fare altre antenne, mi posso divertire di più. E lasciatene qualche pezzettino in più, cioè non lo tagliare sino a quando non sei arrivato dentro in stazione, te ne prendi un paio di metri abbondanti, e in modo che dentro l'apparato non c'è modo di spostarlo, un domani se devi spostare qualche cosa ti tieni un paio di metri in più di cose, e poi la saldatura la fai una volta che c'hai la misura giusta. Infatti posso provarci, no, lo attacco, potrei scegliere di attaccarlo a un commutatore e poi metto un cavetto lungo e poi posso arrivare fino dentro la cucina, non c'è problema. Oppure mi tengo sempre lo stesso cavo e me ne tengo metri in più. No, al limite per fare un'altra cosa, tu arrivi direttamente all'apparato, diciamo l'apparato principale, poi se ti vuoi fare un coso, un altro passaggio in un'altra stanza, puoi usare un cavo sottile, un RG58, così è più maneggevole, magari fai un buchettino in un angolo da parete, lo passi di lì e poi in modo che quello lo puoi passare nel battiscopa, filo filo, in modo che non ti dia fastidio se ti vuoi mettere, se ti vuoi ascoltare in un'altra stanza, però la stazione principale, il cavo diretto lo metti sulla stazione principale, poi magari ti metti un commutatore con un altro cavetto, come ho fatto io con le altre linee, c'è un'altra linea per un'altra stanza di emergenza, magari dice ci mi metto di lì la notte, voglio stare coricato nel letto dall'altra parte, c'ho la possibilità di commutare, c'ho tre linee io, in modo da dividermi le cose. E adesso vedo, intanto è arrivato tutto, devo solo piazzare. L'unico problema ancora è che scrivania non ho trovato quella giusta, perché quella che mi ha dato, o se l'ha presa mia sorella e se l'è stata trasformata, staccata adesivi e altro, quindi me ne devo prendere una anche angolare, penso, perché non ci sta più nessun apparato, ho comprato troppo. Ah, scusate il monopolio. Riccardi, ma tu la devi mettere in stanza o te la devi mettere nel garage quella roba? Quale roba? Io devo mettere tutto in stanza, qua ci saranno solo due baracchini. No, perché io con la scrivania che poi non ci hanno preso, te la do a te, te la sistemi un pochettino, te la puoi, nel ripiano ci puoi mettere del tappeto in gomma, tanto li vendono anche i cinesi quei tappetini, ci sono di tutti i colori, te la puoi fare anche rossa per dire, a metraggio, glielo metti sopra, si adatta bene, se vuoi la puoi anche incollare, oppure metti la gomma linoleum, il classico linoleum, ma secondo me è più bello con quella gomma morbida che esiste di tutti i colori, anche più giovanile. Poi i cassetti, se te li vuoi fare colorati alternati, uno rosso, uno verde, diciamo modo molto giovanile, ed è carino. Se vuoi mandami domani, se riesci a venire con tuo babbo, anche il pomeriggio vieni che c'è più calma, così ve lo faccio vedere e ve la carica. Adesso vediamo, sì, parlo a babbo e ti faccio vedere com'è adesso la stazione, quanto è, scusate il termine, casa in asta. Questa scrivania che ti sto dicendo io c'ha anche i cassetti in legno abbastanza robusto, non è truciolare, e poi c'è uno sportellino laterale dove di dietro ci puoi mettere le cose più ingombranti che non stanno nei cassetti. Ehi, allora va bene, abbiamo monopolizzato il canale, facciamo riprendere qualcun altro. Fabrizio, se c'è ancora. Sì, no, ci sono, io sono qua che sto operando la torre, io sto aprendo lo stadio finale e voglio capire cosa sta succedendo. Una volta che ce l'abbiamo individuato il guasto, quindi se sappiamo lo stadio finale vediamo un attimo. Fabri, una domanda tecnica, quella modifica che mi hai detto tu che nel servizio del K, a che funzione ha? Praticamente ritocca le tensioni, perché praticamente che cosa succede? Succede che ogni tanto in AM e in FM ti sgancia, capito, quel difetto che ti fa ogni tanto, e magari il Riccardino glielo faceva ancora di più perché non ha le tensioni giuste nel in stazione a 200 volt, anche se pure all'interno ci sono tutti i regolatori di tensione, quindi alla fine un po' non è che dovrebbe soffrire molto, però basta, praticamente devi andare sulla unit control e loro cambiano un condensatore, una resistenza un po' più basse, e quindi io l'ho avuto la certezza di questo problema, perché quando quando l'ho fatta sulla scheda, prima ho montato una scheda RF sulla scheda di Riccardino che io avevo in più, però non va in trasmissione, lì deve essere lo stesso un problemino, ma non mi interessava mettermi a ripararla, e lì praticamente quella lì invece, quella scheda clippava praticamente da MFM, quando trasmettevi non andava, si spegneva il display eccetera eccetera. Allora gli ho fatto la modifica sulla scheda, quella che dice quel richiamo, e lui anche quell'altra scheda che avevo ferma ripresa a funzionare, perché la trasmissione per il resto funzionava tutto, quindi non sganciava più il PLL dal VFO. Succede quello, praticamente si scangia e quindi ti azzera tutti, vedi tutto, ti manca il display. Per fare questo bisogna buttare giù la scheda, ma nemmeno molto, perché basta sollevarla solamente, non c'è nemmeno bisogno di scollegarla completamente, devi aprire e sostituire questa roba qua, e lei gli dà la tensione. Io per esempio la mia gliel'ho fatta, anche se non c'aveva bisogno, e anche quella di Riccardino gliel'ho fatta in più, perché comunque male non gli fa, e ho notato che, ti ripeto, con un'altra scheda montata su questa radio infatti mi dava problemi, e poi non è veramente un problema, dipende, sai cos'è? Che dipende da alcuni 430 non l'hanno fatto la maggior parte, però alcuni hanno riscontrato questo, perché? Perché poi alla fine in un circuito ci sono una serie di componenti che hanno delle tolleranze, quindi magari qualcuno non gli creava problemi, qualcuno magari sommi tante tolleranze e quindi ti abbatteva la tensione di poco, e quel poco ti faceva sganciare il PLL in AM e FM solamente. Questo è il problema. Siccome ci vuole una mezz'oretta per farla, chi ce la conviene, se ti dà un problema, magari che qualche volta in AM e FM ti parte qualcosa, conviene subito aprire e sostituire. Ok, ti rilevi leggermente la tensione e metti un condensatore un pochettino più grosso, con una capacità più grossa, confermi, in modo che abbassando la resistenza aumenti leggermente la tensione. No, non è più bassa praticamente lì passa praticamente, non è solo la tensione, lì passa anche il RF, capito? E quindi rischia che ti si sganci proprio quello che succede al 440, praticamente in quella porzione di, quindi io ho detto di perché comunque ti si abbassa la tensione, però poi alla fine quello che succede è che non oscillano più, non ti oscilla più l'oscillatore, e quindi ti si sgancia la radio. Ok, va bene, vediamo se Luca c'è ancora. Vai Luca. Nulla, vai Riccardino. Cosa ti sembra, disordinata un po'? No, ti ho risposto, è un po' più ordinata, anche se sinceramente, se vuoi un consiglio d'amico, tieniti solo le cose indispensabili, e parlo soprattutto della microfonia, le cose che usi in un certo modo e un certo tipo di apparecchio te lo metti diviso come ho fatto io, e poi l'altro reparto, diciamo il reparto più economico, che lo chiamo, poi capisci a me, di lì ci metti i microfoni che utilizzi, è inutile avere 10 di questa radio che magari ne utilizzi 3 e ti riempi di microfoni. microfoni, ti metti solo, quante radio c'hai di quel tipo di radio economico, 3, e ti metti 3 microfoni, quelli più adatti, poi c'è l'altro tipo di radio un pochettino di qualità superiore, e lì ci metti il suo microfono, è utile mettere tante cose, scenografie, poi devi fare un reparto ascolto e ti fai un angolino dove ti metti il ricevitore, se ne hai più di uno te ne metti più di uno, in modo che sia molto ergonomica, ti metti una sedia girevole con le ruote, in modo che ti puoi spostare come faccio io, ed è il sistema più comodo da utilizzare. Oltre varie, poi devi andare a accendere uno, ti devi spostare, ti fa un reparto per certe cose e poi un altro reparto per altre cose e un'altra parte è dedicata all'ascolto, come ho fatto io. Ho capito, va bene Roberto, scusa se ve lo chiedo, posso farti una bassa? A me? A te Roberto. Assolutamente, quando vuoi. Chi c'è arrivato qua sul 10? Mi sono io, l'ascolto. Orecchio di porco pure tu. Sì, no, troppi impegni Roberto, stavo parlando, diciamo chattando più che altro, con un'amica, quindi le donne parlano molto, si trattengono un bel telefono nella. E a me la dice Riccardino. Ora, ora, attenzione, binario 10, cambia. Ora. Sto bene, c'ho una fame, guarda, ho già cenato io. Già cenato, lasciami il bello con una bella birretta fresca fresca. Avevo mangiato un visto io perché c'avevo un po' di languore, però non è che posso mangiare assai, perché mi è salita la glicemia. Stamattina sono andato a fare le analisi del sangue e ce l'avevo a 135 stamattina. Diciamo che dopo che ho fatto le analisi ho fatto colazione e mi sono preso la pasta, capito? Ma sono andato a digiuno. Eia, a digiuno ce l'avevo 135 la mattina, che non è difficile averla così bassa la mattina. La mamma all'inizio era sempre perfetta, sembrava che non fosse diabetica. E poi, con esagerazione, era sempre anche 98, 97, 102, 100, 105, 110, 120 all'inizio, poi adesso un po' più alta, e di notte era 248. Ma magari ci vuole l'insulina adesso, bisogna dirglielo al dottore, bisogna fargli presente questo fatto qua Luca, perché loro si regolano in base alla glicemia che tu hai, se tu glielo fai presente loro ti dicono magari c'è bisogno di insulina, gli diamo un'iniezione da fare al giorno, capito? Gianni, non è quello il discorso è che si risana la bocca, perché se fa le cose fatte bene sono a posto le glicemie, capito? E non è facile, Luca. A dirlo è facile, a farlo è difficile. Io ci ho provato e sono riuscito, quando mi dovevano operare la gamba me l'hanno detto, se tu hai le glicemie alte non ti operiamo. Quando me l'hanno misurata, 97, cazzo, ma lei non è diabetico allora, 97 di mattina, strano. Ma non stavo mangiando pane, non stavo mangiando pasta, stavo mangiando solo insalata e una fettina, un pesciolino piccolo, capito? Tutto tipo un cedino stavo mangiando, ma a me mi piace rubare, mi buco di va, quando devo accompagnare col pane qualche cosa. E a tutti i rubare, non solo a te. Allora, te la fa passare, sai che cosa? Cetriolo, ti piace cetriolo, ti cavolo si chiama. Sì, non è che mi piace più di tanto, ha odore di sudore, non mi piace. Fa dei schifo brutto, a me non mi piace, dico la verità, ha l'odore del sudore. Vabbè. Diciamo che la fa passare quando mangi poco. Io, a me mi ha detto che mi toglieva pastiglie, iniezioni se io mangiavo come mi diceva lui. Ma non ce la fai più di tanto, Luca. Ce la fai per un periodo, poi ti verrà la crisi d'astinenza, devi andare a tremarella. Stai male, se non mangi stai male. Sì, lo so. Vabbè. Bisogna avere pazienza, come dici tu. Non è facile neanche. Tipo crisi d'astinenza ti vengono, la tribuletta, quando ce l'hai bassa, ti prende a tremare, una volta ero in una panetteria, cazzo, mi detto, ma non fa subito un panino che mi sta sentendo male, cazzo, mi sentivo come per svenire. Ma ho fatto un panino, me l'ho mangiato in fretta, come ho fatto il panino mi sono ripreso, cazzo, come sta? Già sto meglio adesso. ce l'avevo e basta, poi ce l'hanno andata a casa, ce l'avevo, dopo che ho mangiato il panino ce l'avevo mi pare 87, una cosa del genere, dopo aver mangiato il panino, capito? Immaginati come ti era brizzo. Ma te la porti appresso la macchinetta già, avete un marsupio? Marsupio sì sì sì, mi dà giù un po' di roba che sono marsupio, ui. Lo so, avevo esagerato io, capito? Io avevo diminuito la roba da mangiare e facendomi la stessa insulina, capito? Devo diminuire anche le unità, invece non le ho diminuite e facevo la stessa insulina con meno roba da mangiare, quindi cosa è successo? Che mi si abbassava troppo. A tutti piace mangiare già. A me mi piace un sacco. A me piace un sacco, non a me mi. Lo so, no, ma non sono tutti così mangioni, eh. A me che adesso con gli amici e cose, a fare il divinato, mi sono già mi piace a poco, al ciso che facevamo sempre. Il sabato, che servizio? Io, voi non potete bere. C'ero io capo squadra, non beveva nessuno. Solo Coca-Cola, aranciata e gazzosa, che si cose. Roba alcolica niente, che era il servizio. Mangiava, ma a bere beveva solo roba alcolica. Chi non era il servizio poteva dire che si divuria. Vino, birra, di che si divuria. Già, lo so, vabbè. Il pane è buono, cavolo, il pane è guai, se manca il pane. Vabbè, grazie a Dio io me lo posso permettere, dai. Che sono un sano. Poi, chissà, un domani, speriamo bene, che non sia... che non sia una cosa che passa dalla mamma al figlio. Cara, vuoi sapere una cosa? Mia madre era diabetica e a me mi hanno detto che ero soggetto a prendermelo, magari però se mangiavo più regolare invece che prendermelo subito me l'avrei preso dopo 10 anni, capito? Invece mangiando sproporzionato, io mangio un po' di formaggio di salsiccia, mi piace a me. A me piace molto il formaggio lo stesso, salsiccia, cioccolatino li mangio. Però magari se non posso mangiare per quello che ho, se non mi offro, e poi dovrò stare proprio veramente a dieta. Sicuramente se fanno quell'operazione, la cistiferia già, io perdo un bel po' di chili, perché sicuramente mi metterà una dieta stretta, ma stretta, però se non la segui, sei obbligato a seguirla. Come stai uscendo con questo apparato, Luca, di radio? Benissimo. E questo qua è il microfono che ho fatto io, quello che ho cambiato la capsula, eccetera. E il Cobra con il DM1000 modificato. Va bene. Perfetto. Sono andato stasera da di Marina, in campagna. Ci hanno dato un po' di zucchine fatte da loro, cioè campagna da loro, le ha piantate, no? Belle, sono molto buone, dolci dolci, e in più i fiori di zucca, solo che mi stavo a dare, mi detto no, non me ne dare, a me tanto non le faccio, non... adesso mi metto, me li fa lì sabato con la pastella e fritte, mamma mia, buona risa. Ehi, sono buono. Le zucchine io le mangio anche bollite, bollite e fatte in salata, con molto aceto, olio aceto, va, aceto un po' abbondante, in modo che gli dia bene il sapore, guarda quanto mi piace, ti rinfrescano più. Ma chi sei rimasto? Roberto non c'è? Roberto e Riccardino sono andati a telefonare, adesso mi sta allontanando che devo portare il cane, devo fare da mangiare e portarlo giù. Ciao ragazzi, ti saluto, non so se riprendo stasera, vediamo un po', dai. Ciao, buonanotte. Ciao Gianni, buona carica, quando la fai ci sentiamo alle prossime. Dino, ciao Roberto anche. Niente, dai, staranno a fare carica, poi porto giù il cane. Carichiamo tutti e due e poi lo porto giù. Allora, ma beh, già ieri notte è uscito se... Cosa? Ho detto, se ieri notte sei uscito. Sì. Ma tu, era quello che ho fatto una passeggiata. Ehi, vabbè, dai, già, buona cena allora, dai, non lo so, ma qui sento dopo, boh, si da giocare, lo lascio acceso, però sarà molto difficile. E dai, ci sentiamo, dai, ciao. Ciao Gianni, anche a Luca, ma vabbè. Oh Robè, ma questa modulazione per ti piace lo stesso? Roberto! Ah, mamma mia come sto! E beh Luca, cosa mi racconti? Ti racconto che ho lo stomaco che è bello, bello pieno. Poi ti racconta che non ho niente. Nulla. No, no, no, no. E tu? A posto, studiato. Mi sa che ieri ti ho sentito che sei stato promosso. Certo, sono stato promosso ieri. Dove vai adesso, in? Ma adesso vado in terza. Ah, che azzardo. Perché sei così in basso? Ah, tanto c'è anche un'alternata allucinante. Dove è staccato tutto? Ehi, vabbè, 4.40 c'hai. Vai tu. Cioè, dalla serie ti sei rotto le scatole, là. Beh, così bisogna fare, Anto, tanto cosa va. Vabbè. Come te la stai facendo questa pasta agli olio? Spaghetti o baffettine? Non mi piace tanto, preferisco le baffette, io le baffette me le mangerei, noi come zucchino non ce la faccio, però un bel piattosto, forse anche due, come le faccio io, mamma mia, buona ridiso. Le baffette le compro allo Spin, buone, quelle, la pasta che vendono lì, ma sono uno spettacolo. A me gli spaghetti non mi piacciono, nemmeno i bucattini, nuda, non mi piacciono tanto. Allora, pennette, fusilli, ok, anche farfalle. E tutti gli che si riempiono di sugo, poi qualche prevaccinata, buona ridiso, oh yeah. Poi sai cosa faccio io? Quando faccio la pasta, no? Che poi faccio il condimento, perché a Maria non piace molto il suo, no? Un normale, un condimento normale. E se ne leva la parte sua, poi io mi aggiungo il sugo e poi l'olio piccante e formaggio, la quantità. Buona ridda, uia. No, io tipo a pranzo non ne ho mangiato, vedi, oggi pasta non ne ho mangiato, sono sincero, perché non c'era sugo. Vabbè, aspetta, non mi piace, perché non mi piace, e poi la farla di olio non è più grana, ma preferivo di più al sugo, là. Ricordi che tu non mangi queste cose che mangiamo noi, le mangi, sì. E cioè la pasta al pesto non ne mangio, il sugo ancora ne mangio, in bianco non se ne parla, basta, al massimo solo al sugo. Hai detto non ne mangi al sugo? Cosa? Hai detto che non ne mangi al sugo? Allora ci siamo capiti male, no, al sugo ne mangio, è l'unica che mangio, in bianco non c'ha grano, no, non mi piace, e non mi piace neanche al pesto, solo al sugo ne mangio. Sì, ma il pesto è stomacchevole, no, ti piace tu col pesto? Sì, Anto, ti piace col pesto la pasta? Addirittura. Vedi, non ci ho pensato, la carbonara la mangio volentieri. Pucci, no, uova, burro, no. Mi piace, no, non è un piatto che piace a me. Preferisco di più la pasta aglio, olio, prezzemolo e peperoncino. Allora sì, bavettine, ma sono pasta corta, come tanto ne ho, fusilli, tortiglioni non vanno bene, le mezze penne, quella sì. E le farfalle no, le farfalle vanno bene al sugo, tortiglioni al sugo. E vabbè, dai, a gusti. Proprio io gli spaghetti comunque li odio, mamma mia, li odio a morte. Quando vado giù in campagna da suocera fanno spesso e volentieri gli spaghetti, mamma mia, Maria, io non ne voglio questa pasta, ma sto facendo quella. E sono costretto, sono rimasto senza mangiare. E vabbè, dove hai fatto? Purtroppo ti servi i terni, devi mangiare gli sughi verdi. Non posso per te. Sono la pasta accorta, diciamo, la mangio quasi tutta, Allora andavo prima matto per i gnocchetti quelli piccoli, ma guarda, ne ho mangiato talmente tante, vedevo la pasta lì a sugo, ma guarda, non la voglio manco vedere adesso. Sì, vabbè, comunque la pasta ci vuole sempre, da. Ci vuole, no, quanto, me ne sono uscita dagli occhi, i gnocchetti quelli piccoli, mamma mia, no, non ne voglio più vedere. Prendevo 2, 3, 4 pacchi, infatti mi diceva, perché ne compri così tanta? Noi qui ce l'abbiamo di scorta. Poi me ne sono uscite dagli occhi, credimi, tu, dagli occhi. E vabbè, dai. Ma come tutte le altre cose, me ne mangiavo spesso, poi tipo la carne di cavallo la mangiavo prima, adesso se invece la voglia, non ne voglia, non ci scende. Manca Riccardino, non piace la carne di cavallo, vero Riccardino? Confermo, facciamo una petizione e aboliamo la carne di cavallo. Beh, purtroppo quella è una carne, se dici come, cioè, se la pensi come stai dicendo, se quante macellerie chiudono. Beh, purtroppo, ma Riccardino, molta gente che vende questa carne qua, se chiude poi va a morire di fame loro, capito? No, ma io non ne vado proprio matto, preferisco la carne di maiale, così. a me piace molto il capocollo arrosto, la pancetta anche, però il capocollo è una cosa che io amo. Poi impanate fritta, mamma mia, se non le posso mangiare. Vabbè, comunque anche se aboliamo la droga rimangono persone senza lavoro. Ho capito, ma questa non è una droga, capito? La droga non è, è vietatissima, ma la carne di cavallo non è vietata, no? Sinceramente parlando, a me non è una carne che io amo, ma assolutamente, pure capita che magari è capitato, magari qualche fettina, un panino mangiata, ma non, ripeto, preferisco più di più il maiale. Sì, Antone, lo senti sapore, si sente, come? E molte volte non mi si vara. La pecora bollita è buona. Cavolo, a me piace un sacco, mamma mia, ci vado matto, È pesante, Antone, un piombo, però è buonissima. E a me non sai quello che mangi. Beh, sono cose buone, Antone. Io ripeto, la pecora bollita mi piace un sacco. Ma anche cotta in qualsiasi maniera, È pesante, però è buona. Tu Riccardina, mangi la pecora. Riccardina è sparito. Cavolo, sono pieno come un uovo, mamma mia, uovo. Sto scoppiando, c'ho una fame allucinante anche. Poi ci ho mangiato un bel piattozzo di carne e patate. Poi mi sono mangiato, vabbè, nel mentre che mangiavo con un panino, ovvio. Poi mi sono bevuto un mezzo litro di birra, quella non filtrata che sono piazza a te. Poi mi sono mangiato due patatine secche, quelle in busta, una banana, ma sono pieno con un mezzo nuovo. Vabbè, io bollite non è che mi piacciono assai. Non ne mangio mai, diciamo non ne mangio mai, da. Al forno sì, cavolo. Al forno fritte sono buone, vabbè. Tanto, purtroppo male che ne hai mangiati anni addietro, dai, se no te ne hai mangiato. Ma con quanti vate stai uscendo? Cazzo, segnale 3, sì, allucinante. Ho detto Riccardo, ti piace la pecora? No, zero, ho capito. Già è buona, sì. Già è buona. Basta, non è che ho problemi io. Anche Riccardo non sta arrivando un basso, Riccardo. Un attimo, sto controllando a vedere se era un basso o se ero io. Quindi ti sto arrivando basso. Adesso no. Ho alzato un pochettino il mic gain. E Antonio che sta arrivando basso. Però con questa alternata gli copre la radio anche. Non ti porta via la radio, Antonio. Sei più alto di segnale. Però la radio ti ha peggiorato. È pessima Antonio, Pessima. Quando avevi mutuato a casa la campagna, giù, e ti ho sentito laggiù, una schioppettata arrivavi, è benissimo, proprio bello, chiaro, forte. Tanto cioè, non stai iniziando a non capirti più, Sto iniziando a non capirti più di radio, parla? Adesso sì, forse mai stai parlando lontano dal microfono. Eia. Sto richiamando Anto. Parla? Adesso dai, è già migliorato un bel po', Lascia la così, adesso ti sento. No, lascia la così, Anto, che è perfetta, Mutaci tutto, Anto. Uscivi in basso, ciao Pompo. Ciao, Luca. Dai, Asco. Ti volevo dire, se riesci a buscare cosa a Franco Delta 1, se lo vedi, dimmi cosa sta cercando Mario Manser. Ficcat. Perché c'è un lineare di Mario. Hai capito? In pratica la vorrebbe indietro, così se lo sistema. Che vuole ripetersi la stazione, Mario. È per quello che te l'ho chiesto. Tu sei qualcuno sa dove abita, cosa ne so? Figurati. Va bene. Allora ti Luca. Ehi, ma hai detto Davide, il figlio che stavo cercando. Ciao Antonello, comunque. Ciao Riccardo, saluto di ben sentito. Ehi, anche Davide me l'ha chiesto. Poi l'altro giorno ha chiamato al telefono Mario e gli ho detto non so, ho detto il numero di telefono di Franco del Calumetto. Adesso ti provo a chiedere magari se lo santo di riserva. Invece neanche tu lo sai, quindi non so neanche chi chiedere, perché non so né dove abita, nulla, né dove sta lavorando, perché lo riconosce. Boh, ma cuoio, non lo so. Scappa, avanti Riccardino. Ehi, va bene, ben sentito anche a te, Antonello. Ehi, salutoni per ascoltato. Anche a te. Avanti. Ehi, ciao, che l'ho uscito, salutoni per ascoltato. 9.25 come una volta, radio 5, sì, perfetto. Ehi, ciao Claudio, ben ascoltato. E niente, sono sempre a casa, esiliato, senza far niente, mi sto dedicando alla radio questo periodo, visto che è da un po' neanche che non sto neanche uscendo e sono quasi tutto il giorno alla radio, sistemando, cercando di creare antenne, capito? E niente, comunque saluto a te e a Gianni. Io sono 54.